capo si sta navigando a vista sui mercati in questo momento, soprattutto sull'Europa, quindi paragonare questi rendimenti con rendimenti passati, diciamo in cui la situazione era completamente differente, non è corretto. In questo momento stiamo appunto come guidando nella nebbia, abbiamo bisogno che la nebbia si possa diradare un po' per vedere meglio, insomma, e devo dire che da inizio dell'anno sembra che un po' di questa nebbia si stia diradando e infatti i rendimenti, diciamo, per fare un esempio, soltanto poco prima dell'asta, che questi titoli giravano tipo al 3,77, la domanda è stata sufficientemente importante da parte degli investitori e l'asta è uscita 10 centesimi sotto. Diciamo, queste sono piccolezze. Non è confortante che lei ci dica che anche voi state navigando a vista con in mezzo alla nebbia? Perché l'ho chiesto sul bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto? Perché da un lato il rendimento che noi abbiamo dovuto offrire per trovare dei compratori sul nostro debito è salito e questa non è mai una buona notizia. Dall'altro però la domanda è stata di 1,4 volte l'offerta, per cui abbastanza buona, mi sembrava un dato certo, complessivamente buono. Il risultato dell'asta è complessivamente buono per il sistema in generale, cioè la paura di non poter piazzare questi titoli era un po' lo spettro con cui avevamo chiuso l'anno passato, non soltanto questi ma anche l'asta spagnola che c'è stata, l'asta portoghese dell'altro giorno e tutto quello che riguarda il funding, diciamo, dei primi sei mesi di quest'anno. È questo che faceva un po' ha chiuso il 2010 con questa paura. È logico che la medaglia è da vedere sotto due punti di vista: da un lato lo Stato che si indebita a tassi sicuramente più alti e dall'altro lato gli investitori che possono investire a rendimenti e a ritorni più importanti, però nello stesso tempo si assumono dei rischi in più se il mercato li offre a questi livelli.